L'incidente della Salette. Massimino Giraud. La sera del martedì 24 settembre 1850, quando il vetturino d'Ars Francesco Pertinan si fermò davanti alla scalinata della chiesa, dalla sua carrozza scese un gruppo di 5 persone, 3 uomini, cioè i signori Brayer, Verrier e Thibault, una fanciulla, Angelica Giraud, ed un ragazzo di 15 anni, Massimino, fratello di Angelica. Il signor Thibault, un poco sofferente, si fece condurre all'albergo, mentre gli altri tentarono di penetrare nella stretta navata domandando del santo. Massimino Giraud, dalla figura minuta e gentile, dal viso rotondo, dall'aspetto sano, dagli occhi grandi, belli ed espressivi, che dimostrava meno di 15 anni, era stato uno dei veggenti della Salette appena 4 anni prima, il 19 settembre 1946, su quella cima delle Alpi del Delfinato, mentre insieme a Melania Mathieu, pastorella 14enne, custodiva le mucche di un contadino al cui servizio si trovava solo dal giorno innanzi. Verso le 3 del pomeriggio, secondo il racconto dei pastori, era apparsa ad essi una bella signora, circondata da un meraviglioso splendore, la quale, seduta su uno scoglio dell'umile torrente della Sezia, nascondeva il viso fra le mani e piangeva. Con voce molto dolce, ella aveva invitato i fanciulli ad avvicinarsi senza timore. Poi si era alzata ed aveva parlato, accennando alla collera di Dio contro i bestemmiatori ed i profanatori del giorno festivo, con un'allusione anche ai castighi preparati e alla necessità della preghiera e della penitenza. Dopo circa una mezz'ora, levandosi in alto, si era dileguata nell'azzurro del cielo. Per 4 anni, nonostante che innumerevoli volte gente prudente e gente indiscreta li avesse pregati a ripetere la meravigliosa storia, Massimino e Melania non avevano mai variato la loro narrazione. Non si erano mai contraddetti l'un l'altro nel loro racconto. Sui loro volti si leggeva la più completa buona fede, proprio dei cuori semplici, e perciò il numero degli scettici attorno alla loro testimonianza sull'apparizione si era assai ridotto. Il vescovo di Grenoble aveva bensì ordinato di controllare scrupolosamente le loro parole, ma fino al 1850, tempo in cui Massimino venne ad Ars, il decreto dottrinale di Monsignor di Bruyra sui fatti della Salette era ancora in approvazione e non doveva apparire se non un anno dopo, il 19 settembre 1851. Non dimentichiamo questo particolare pieno di importanza. Nel 1850 nessuna voce autorevole si era ancora pronunziata ufficialmente sulla verità dell'apparizione. Nella primavera del 1847, all'epoca dello scioglimento delle nevi, vi erano stati dei pellegrini che erano saliti alla Salette e molti, nel loro ritorno, passando per Ars, avevano informato il curato, che fu presto al corrente del fatto meraviglioso. Fin dal principio, dice il conte di Garez, aveva creduto all'apparizione della Vergine non senza un certo riserbo, perché in questo genere di cose si conformava all'autorità dei vescovi, e Monsignor de Vie, certamente interpellato dal santo su questo affare, fino al 1851 ritenne doversi attendere la verità dallo svolgersi dei fatti, e tale fu anche la condotta del nostro santo. Praticamente, alle persone che desideravano andare alla Salette, egli consigliava il pellegrinaggio. Parlava della Salette nei suoi catechismi, metteva la sua firma sulle immagini che ne riprotegevano il fatto, ne benediceva le medaglie, teneva nella sua camera un quadro dell'apparizione ed aveva accettato acqua della sorgente miracolosa che distribuiva ai suoi amici. Tutto ciò faceva nonostante le obiezioni che a lui potevano venire dal suo coadiutore Don Raimond, che non credeva ai fatti della Salette. Don Raimond era salito sulla montagna della Salette un giorno in cui verrà lassù anche Massimino, ed aveva approfittato di questo incontro per fare a lui alcune interrogazioni, ma Massimino non aveva voluto rispondere. Era bastato questo atteggiamento perché Don Raimond, di carattere suscettibile, si sentisse profondamente indispettito fino al punto da non accettare per questo motivo il fatto dell'apparizione. Ma qual era il fine per cui nella sera del 24 settembre 1850 i signori Barrier e Verrier avevano condotto dal curato d'Ars il giovane Massimino Giraud? Con illuminata prudenza, il vescovo di Grenoble, Monsignor di Brouillard, aveva raccomandato a Don Melin, parroco di Corps, la parrocchia di Massimino, di tenere il fanciullo entro i confini della diocesi, anzitutto perché non era ancora chiusa l'inchiesta sui fatti della Salette e rimaneva necessaria la presenza dei testimoni dell'apparizione, ed anche perché non era affatto conveniente che Massimino e Melania fossero condotti in giro come oggetto di curiosità. Per quanto infatti fossero stati resi celebri dai fatti che si erano svolti davanti ad essi, dovevano ambedue rimanere nell'ombra. Ma i signori Bayer, Verrier e Thibault non avevano compresa questa norma di prudenza e, malgrado l'opposizione di Don Melin ed il divieto di Monsignor di Brouillard, con poca prudenza condussero Massimino dal suo paese fino ad Ars. Il pretesto era quello di mettere Massimino nella condizione di poter consultare un santo prete che leggeva nei cuori sulla sua vocazione, ma il vero scopo del viaggio doveva essere diverso, perché appariva tosto che il signor Barrier e i suoi amici erano venuti ad Ars più con mire politiche che con intenti religiosi. Subito, al loro arrivo, domandarono di vedere Don Vianney e, siccome questi era al confessionale, li ricevette il suo coadiutore sempre meno occupato. Quando si presentarono, asserisce Don Raimond, li pregai di venire un momento alla provvidenza a passare con me qualche minuto e li interrogai circa lo scopo della loro visita. Mi risposero che Massimino intendeva consultare il santo sulla sua vocazione, ma il parroco di Corps, che lo conosce ed ebbe cura della sua istruzione, sarebbe forse più indicato a dargli un consiglio in merito. Quei signori insistettero, facendomi osservare in presenza di Massimino, che si trattava di un fanciullo molto svogliato, che il parroco di Corps aveva perso ogni buona speranza a suo riguardo e che appunto per questo si desiderava avere il pensiero di un santo. «Ebbene», risposi, «avrete questa fortuna domani mattina». Ciò detto, uno dei viaggiatori mi domandò: «E voi cosa pensate dei fatti della Salette?» Risposi che non ero riuscito a formarmene un giudizio preciso, ma che era mia persuasione che su certi punti si usava troppo poco riserbo e prudenza che pure erano voluti dalla Chiesa. «Ma come non credere», aggiunsero, «a ragazzi che non potevano inventare quanto raccontano?» La conversazione sembrava assumere un tono piuttosto polemico. Don Raimond non dimenticò di ricordare un fatto di cui era venuto a conoscenza da poco, riferentesi a tre fanciulle che 40 anni prima erano andate d'accordo per fare credere alle loro famiglie e alla gente di avere avuto un'apparizione della Santa Vergine. Solo all'età di 50 anni una di queste pretese veggenti si era decisa a confessare la sua menzogna. Poi, portandosi di fronte a Massimino, aggiunse: «Vedi dunque che io ti ho ricevuto mentre tu sulla montagna ti sei rifiutato di parlarmi. Ma qui tu avrai da fare con un santo e non si possono ingannare i santi». Massimino, già stanco del viaggio ed irritato dalle parole di questo sconosciuto, diede allora a Don Raimond la risposta che gli era abituale ogni volta si cercava di mettere in dubbio la sua veracità. Raccontò infatti egli stesso l'anno seguente ad una persona di Nantes, la signorina de Brulé: «Il vicario d'Ars mi diceva che io avevo inventato una storia e che non avevo visto la Santa Vergine, ed io, che non ero di buon umore, gli risposi: ebbene, se volete, mettete pure che io non abbia visto nulla, e me ne andai». Massimino e il curato d'Ars. «Quanto a me», disse poi Don Raimond, «prevenni il santo di quanto avveniva ed egli mi ringraziò con parola riconoscente». Massimino gli fu presentato da solo nella sagrestia verso le 8 del giorno seguente. Che cosa sia intercorso tra lui ed il santo in quel colloquio non lo si seppe, perché Don Vianney non ne fece parola, ma il giorno seguente fratel Gerolamo ed io ci accorgemmo che egli rifiutava di mettere la sua firma alle immagini della Salette, né voleva benedirne le medaglie. Per comprendere qualche cosa sul motivo di questo strano cambiamento, sarà bene udire Massimino stesso, perché ciò che egli ha raccontato, oltre a non contraddire altri testimoni, in verità meno accreditati di lui, ha tutta l'aria di essere sincero. La stessa persona di Nantes, alla quale già abbiamo accennato, che il 27 settembre 1851 si era incontrata con lui sulla montagna della Salette e lo aveva trovato, come sempre, espansivo, affettuoso, narrante con semplicità, senza né scuse né fronzoli, le sue piccole avventure, ebbe a testimoniare. Mi narrò che l'anno precedente si era lasciato indurre a seguire tre uomini, che si pensò poi volessero mettere il segreto a profitto di una corrente politica. Ma ecco il racconto del colloquio col santo. «Perché, fanciullo mio, vi siete affidato ad essi? Per vedere un po' il mondo. Ma siete stato imprudente, in quale guaio vi siete mosso? Ma che cosa pensavate? Oh, conosco che ho sbagliato. E il colloquio col curato d'Ars. Volete dirmene qualche cosa?» Quegli uomini mi condussero da lui perché lo consultassi, come dicevano, sulla mia vocazione, ed egli mi consigliò di ritornare alla mia diocesi. Quelli montarono in collera e mi rinviarono dal curato d'Ars un'altra volta, dicendomi che non avevo capito bene. Il primo colloquio, che fu assai breve, ebbe luogo dietro l'altare, vicino al confessionale destinato ai sacerdoti. Questa volta, continua il ragazzo, andai al suo confessionale della sagrestia. Si stentava un po' a capirlo, mancando egli di molti denti. Mi domandò se avevo visto la Santa Vergine ed io risposi: «Non so se è la Santa Vergine, ho visto qualche cosa, una signora. Ma se voi, signor curato, sapete che è la Santa Vergine, dovete dirlo a tutti questi pellegrini, perché tutti credano alla Salette. Si dice anche che vi siete accusato al curato d'Ars di avere detto delle bugie. È vero?» «Sì, gli ho detto che avevo mentito al parroco di Corps ed egli mi ha detto che dovevo ritrattarmi. Risposi che non potevo e che non valeva la pena, ma egli insistette dicendomi che era necessario. È già passato troppo tempo e non posso più, sono cose vecchie». «Ma che cosa intendevate dire?» «Oh, intendevo le bugie che dicevo al parroco di Corps quando non volevo dirgli dove andavo o non volevo studiare la lezione». «Ma mi sembra che il curato d'Ars intendesse che queste menzogne riguardavano l'apparizione». «Sì, ha capito così, o almeno si è scritto così sui giornali». «Ma non vi siete confessato?» «No, ero al confessionale, ma non ho detto il confitor e non sono andato ad Ars per confessarmi». Angosce di un'anima santa. Il colloquio era durato circa 20 minuti. I cinque viaggiatori se ne partirono in quel medesimo giorno, né sembra che il loro rapido passaggio sia stato avvertito dai pellegrini. In verità, se in seguito Don Raimond avesse avuto la medesima discrezione del suo santo curato, non sarebbe mai esistito quello che si chiama l'incidente della Salette. Il mattino del 26 settembre, Don Raimond non solo osservò che Don Vianney rifiutava la benedizione delle medaglie di Nostra Signora della Salette, ma trovò anche sull'armadio della sagrestia una busta sulla quale era stato scritto l'indirizzo per Monsignor di Bruyard. «Che cos'è questo?» domandò il vicario con la sua abituale delicatezza. «Volevo scrivere una lettera per il vescovo di Grenoble e farla consegnare da Massimino, ma il ragazzo ha rifiutato di accettarla», ed aggiunse rattristato: «Io sono stato malcontento di lui ed egli è stato malcontento di me». Da quel momento, conchiude Don Raimond, ogni tentativo per ottenere qualche spiegazione ulteriore sul colloquio di Massimino Giraud con Don Vianney riuscì inutile, e quando il parroco di Voiron e Don Gerain, parroco della cattedrale di Grenoble, sacerdote distintissimo ed amico del santo, vennero ad Ars per ottenere qualche altro particolare, non ebbero migliore fortuna. Solamente allorché il vicario generale Rousselot ed il parroco di Corps, mandati dal vescovo di Grenoble, portarono ad Ars un biglietto di Massimino che lo autorizzava a parlare apertamente di quanto era stato oggetto del loro colloquio, il santo si piegò a dare qualche spiegazione sull'incidente della Salette. E tutto quello che ha detto allora si riassume in una frase che poteva essere stata dettata dal contegno di Massimino: «Se il fanciullo ha detto la verità, non ha visto la Santa Vergine». Già sappiamo quello che Massimino aveva detto a Don Raimond: «Mettete pure che io non abbia visto nulla». Forse queste parole furono riportate al santo nel loro senso meno favorevole. D'altra parte, don Vianney sapeva che il fanciullo, dopo il racconto nel quale aveva parlato di una signora, aveva pronunciato la parola bugia e, non essendo sempre favorito del dono dell'intuizione, vide in ciò una ritrattazione. Fu in questo modo che nell'anima del santo entrò un dubbio pieno di angoscia, del quale soffrì 8 anni. La prova fu anche raddoppiata perché al dubbio suo si aggiunse l'angoscia dei pellegrini che non ignoravano le lotte del suo spirito, tanto più che, come sovente avviene in simili circostanze, i fatti vengono snaturati ed amplificati. I nemici della Salette abusarono del nome e dell'autorità di don Vianney, causando profondo turbamento nelle anime pie, che incominciarono a pensare non poter essere avvenuta l'apparizione se un santo come il curato d'Ars non vi prestava fede. Don Raymond si incaricò di imporre alle religiose di Pont-d'En, presso le quali era passato, di togliere dalla casa un quadro della Salette e, alla meraviglia delle suore, rispose: «Il curato d'Ars ha visto Massimino e da allora non crede all'apparizione». Non v'è dubbio che don Vianney ebbe grande pena per la pubblicità data a questo fatto per le indiscrezioni di don Raymond. Sopra un fatto recente, attorno al quale si levavano polemiche rumorose, egli era in diritto di avere la sua opinione personale come chiunque altro, anche perché la Chiesa non faceva un dogma di fede della visione di cui erano stati favoriti i 2 fanciulli, ma vi erano perfino dei vescovi che venivano a consultarlo, ed egli ormai, sia pure nella sua grande umiltà, non poteva ignorare interamente l'autorità morale annessa alla sua parola e l'influenza che esercitava nel mondo delle anime. Veramente, come affermavano alcuni, non si trattava che di un malinteso. Ma perché divulgare una diffidenza ingiusta a proposito di un fatto reale che interessava la gloria di Dio? «Ho rimorso», diceva don Vianney alle direttrici della provvidenza, «perché temo di avere fatto qualche cosa contro la Santa Vergine. Ho bisogno che Dio mi illumini su questo punto e lo pregherò per questo. Se l'apparizione è vera ne parlerò, se non è vera la cosa finirà». Prima che il vescovo di Grenoble ne avesse parlato, dichiarandosi per l'avvenuta apparizione, ogni qualvolta lo si interrogò a proposito della Salette, il santo usò sempre il massimo riservo, dando risposte evasive ed il consiglio di attendere le decisioni dell'autorità ecclesiastica. Ma quando nel settembre 1851 comparve il decreto di Monsignor di Brouillard, sentì nel suo cuore crescere l'angoscia. La legittima autorità dichiarava doversi ritenere come avvenuta l'apparizione, scartando l'ipotesi che i 2 pastori fossero illusi o ingannati. Da quel momento avrebbe voluto inchinarsi senza riserva di fronte a tale giudizio, ma nella sua mente si ripetevano con insistenza alcune parole di Massimino, eppure non opponendosi non poteva trovare la fede di altri giorni. Più volte, dopo la decisione affermativa del vescovo, quando attraversava la folla dei pellegrini, uomini, donne ed anche preti improvvisamente gli rivolgevano la domanda: «Padre, si deve credere alla Salette?», egli ne era ossessionato. Così aveva preso la risoluzione di dare anche allora una risposta evasiva, lasciando ad ognuno la propria persuasione, senza nulla rivelare delle impressioni sue, a meno che fosse stato interrogato da persone qualificate che gli avessero chiesto quale fosse il suo effettivo pensiero. Cosicché, racconta don Dubois, parroco di Farens, un giorno il primo vicario di San Sulpizio di Parigi, volendo sapere il pensiero del santo sulla Salette, questi si accontentò di rispondere che si deve amare molto la Santa Vergine, ed avendo quegli insistito per 3 volte nella sua domanda, il santo ripeté 3 volte la medesima risposta. La fine della prova. La prova finì solo nell'ottobre 1858, cioè circa 10 mesi prima della sua morte, quando riacquistò intera la sua prima fiducia sull'apparizione della Salette, come ne fa fede don Tocanier, col quale il santo si era espresso in questi termini. Tormentato da 15 giorni da grandi agitazioni interne, feci un atto di fede nell'apparizione della Salette e ritrovai la pace. Desideravo allora vedere un prete di Grenoble a cui confidare quanto era passato in me, ed ecco che il giorno seguente giunge da quella città un ecclesiastico molto distinto, il quale, appena entrato in sagrestia, mi chiede che cosa si dovesse pensare della saletta. Io gli risposi che si poteva credere. Avendo poi bisogno di una somma di denaro per completare la fondazione di una missione, mi rivolsi a Nostra Signora della Salette e trovai il denaro necessario. Questo fatto mi parve miracoloso. Da allora, pure mantenendo grande riservo nelle discussioni che potevano sollevarsi, favorì il pellegrinaggio alla Santa Montagna. Fu largo di incoraggiamento a quei suoi penitenti che gli manifestarono il desiderio di andarvi, e riprese anche a benedire ed a distribuire medaglie ed immagini rappresentanti la Vergine in lacrime. Non si conosce se ne abbia parlato nelle sue omelie e nei catechismi, ma non si deve dimenticare che siamo già a quel tempo della sua vita nel quale difficilmente si faceva capire. D'altronde, allora la sua predicazione si riduceva ad un inno sull'amore di Dio e sulla presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo, ma nelle occasioni opportune non mancò di dichiararsi favorevole all'apparizione. Aggiungiamo a conclusione una testimonianza del canonico Oronte Saint-Germain, parroco della cattedrale di Belley e già parroco di Saint-Trévier-sur-Mognan, il quale nel 1876 depose al processo apostolico. Trovandomi un giorno in una riunione alla quale partecipava anche il curato d'Ars, gli chiesi che cosa pensasse dell'apparizione della Salette ed egli, prendendo un tono serio, mi rispose: «Ci credo fermamente». E Maddalena Mandiscipio asserisce: «Nel 1858, avendo ammalata mia madre, chiesi al curato il permesso di fare il voto di pellegrinare a Nostra Signora della Salette. Ed egli mi rispose che questo non era necessario, ma bastava andare a Nostra Signora della Fourvière ed aggiunse: «Però potete credere alla Salette. Per conto mio ci credo fermamente».